Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarese, che bellezza quando rime dai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, buon lunedì a tutti, bentrovati alla nuova puntata di Caffè Paglia, il programma che si occupa... Buon lunedì, abbiamo vinto... Quale cazzo di buon lunedì, per favore? Abbiamo portato a casa... questo è un programma che si occupa di biathlon, voi lo sapete, voi che ascoltate la nostra trasmissione, è un programma che si occupa appunto di biathlon. Avevamo parlato lunedì scorso che sarebbe stata l'ultima Olimpiadi di Dorothea Wierer, e Dorothea Wierer ha già portato a casa insieme alla squadra, soprattutto grazie a Lisa Vittozzi che ha fatto l'ultima parte alla grande, una medaglia importante nel biathlon, nella staffetta mista, che è quella che un po' racconta a pieno il movimento del biathlon, cioè maschio e femmine insieme in questo sport bellissimo che unisce forza fisica, precisione. Non ce la farai. Saluto Simone che insieme a noi tifosi del Bologna in questo momento condivide anche il risultato. Raga, innanzitutto io odio il calcio. Se si continua così no. E poi non vorrei allarmare nessuno, ma credo che tra Samb e Bologna siamo le due squadre peggiori d'Italia in questo momento. Non vorrei allarmare nessuno. Forse ce la giochiamo col Pisa, dai. Dice meglio il Pisa, dice già meglio il Pisa. Vabbè, non abbiamo ancora salutato. Pisa che butta male. Non abbiamo ancora salutato la stella della trasmissione, lo facciamo. Certo. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh, regaz, io sono anche un po' stanco di fare giurisprudenza. Cioè, diventa molto faticoso. Noi siamo veramente come in un laboratorio di astrofisica, siamo il banco di prova per modelli finora inapplicati. Sì, può essere, c'è anche questo nella partita del Bologna, purtroppo dobbiamo raccontare, partiamo da lì, l'inizio della trasmissione, dalla ennesima sconfitta in casa. Vi ricordate il Fortino dall'Ara? Uguale noi, ma sai che vuol dire uguale? Il Fortino da noi non passa nessuno, e qui passano tutti, tra l'altro c'è anche una componente di sfortuna che si appollaia sulla spalla del Bologna, ma non solo, anche della San Benedettese. Sì, mio padre diceva sempre, Simo, ma secondo te un cane, a chi va a moccicare? A quello che già c'ha i pantaloni strappati. Dice sempre così. È esattamente quel periodo in cui se tu esci di casa e c'hai uno strappetto su jeans, vai tranquillo che i primi 10 randaggi che cammina per strada ti si mangia le caviglie. Non saprei come descriverla meglio. Anche perché ieri pure, cioè Bologna, Paolo Cramoloso di Rossolini, Buffon un po', perché Buffon poi ricordo ha esordito a Parma se non mi sbaglio, quindi hanno pensato, 30 anni dopo far giocare un portiere che faccia il Buffon della situazione tra l'88esimo, poi tra l'altro tra l'88esimo e tipo il 96esimo. Raga, quando non gira, non so più che dire, quando non è per il meno tuo, devi solo metterti nell'angolo e aspettare che finisca. Finisca la pioggia, veramente incredibile. Partita comunque giocata dal Bologna, che ai punti, diciamo così, poteva essere anche vinta dalla squadra d'italiano, ma finisce che è la Cremonese, la Parma, ma anche la Cremonese. Sì, ma anche, in effetti, no, sono due spartiti molto diversi, suonati con intensità diverse, che portano allo stesso finale comunque. Esatto. Posso dire una cosa? Ieri purtroppo non mi ricordo il nome, altrimenti l'avrei citato, sul social con la X, ok? Ho letto la più bella che diceva così: date un uomo da 20 gol all'anno a questa e questo ti vince il campionato segnando 34 gol. Ed è vero, sì, ma una nota infatti affascinante va a intanto domenica mezzogiorno e mezza, fortunatamente non piove, tutti pensano a quelle cose che si fanno domenica mezzogiorno e mezza che non sono vedere Bologna-Parma, ma comunque ormai sei là, te la godi. La partita cambia drasticamente al 18° minuto, quando decide l'intelligenza artificiale che domina la Serie A di quest'anno di lasciare il Bologna in 10 per un intervento che lascia basiti i commentatori di Radio 1, non quelli delle radio che fanno la telecronaca tifosa del Bologna, quelli di Radio 1 che dicono: ma non capiamo cosa sta andando a rivedere al VAR il direttore di gara, il signor Collu. Non lo capiamo neanche noi, in effetti. Cosa va a rivedere? Beh, sì, intanto lui in realtà aveva dato giallo, giusto? L'arbitro aveva dato giallo, ci sta il giallo per un fallo sulla ripartenza. Lo sta rincorrendo, cerca di... Sì, però quello che non capisco io, tu arbitro, vedi al VAR quello che succede. A me sembra evidente che la gamba di Pobega si alza per il movimento che c'è proprio... naturale, fisico, perché tra l'altro la gamba gli rimbalza un po' male in anticipo sul terreno di gioco. Cioè, questi sono particolari, sono finezze che però tu arbitro o tu direttore, diciamo così, del VAR devi sapere interpretare, devi sapere leggere, non puoi creare. A me non piacciono quando i rigori o le espulsioni vengono letteralmente creati dal VAR, perché non conta andare a controllare un dubbio 50-50, sai, vai a cercare di risolvere, e tu invece lo vai proprio a creare, cazzo, il problema. Questa non è un'espulsione. L'espulsione che ovviamente cambia poi alla fine la partita, in particolar modo per le energie che ti rimangono poi nel finale. Visto che tra l'altro mercoledì devi, dopodomani rigiochi la partita con la Coppa Italia, con il turno alla Lazio, a questo punto diventa fondamentale la Coppa Italia per la stagione del Bologna. Appunto finisce che al 95esimo prendi gol da uno che volevi comprare, tra l'altro, quindi non è un gol dell'ex. Inspiegabilmente, secondo me, anche. Ah, sì, dici. Beh, però comunque era uno che era stato segnalato vicino al Bologna, quindi non è ex, ma è un possibile ex. Potenziale ex, che non è esultato, no, invece è esultato. Esultato proprio. Al 95esimo, insomma, a fine partita, in una partita che probabilmente dovevi vincere. Fatto sta che se guardiamo gli ultimi due mesi del Bologna, solo il Pisa ha fatto peggio in termini di punti. Quindi, insomma, stiamo parlando di una squadra che in questo momento, negli ultimi due mesi, sarebbe in lotta per la salvezza. Ha fatto le primi due la lotta per lo scudetto e poi... È vero, cioè, crollo clamoroso. Anche difficile da spiegare, anche se io ho sentito dire che Olmo è stato molto contento di andare, per esempio, e quindi guarda, quando si sentono queste chiacchiere qua vuol dire che il problema purtroppo è proprio nel cuore della situazione. È evidente, ne parlavamo nel corso di questi mesi, di questi ormai paio di mesi e di partite, che abbiamo visto che qualcosa era successo, no? Qualcuno si collegava alla Supercoppa, alla finale Supercoppa, al posto. L'italiano stesso che si collegava alla situazione Supercoppa, derivante dal fatto di aver vinto la Coppa Italia, tutta una serie di conseguenze, diciamo. Esatto, e probabilmente qualcosa nel giochino del gruppo Bologna evidentemente si è rotto. Poi le voci che girano, ovviamente, voci e gli audio che girano ormai a livello, insomma, sono tanti e svariati, però insomma anche il mercato, diciamo, che è stato fatto può essere un mercato che vada a recuperare su quella situazione, cioè su quel qualcosa che si era rotto all'interno del gruppo dello spogliatoio. Qualcuno dice è un mercato molto tranquillo, anche perché potrebbe non essere il mercato dell'allenatore dell'anno prossimo, perché anche su quello ovviamente tante voci stanno girando. Va bene, però, cioè, non siamo in Formula 1 che tu blocchi, diciamo così, la programmazione e lo sviluppo della SF25 perché sai che il camionato è andato in merda e quindi ti concentri sulla SF26, che tanto poi dopo staremo a vedere. Cioè, non funziona proprio così. Cioè, tu non puoi a metà campionato, con ancora Coppa Italia e Europa League da giocarti, perché non è che dici la stagione ormai è andata in merda e dici allora ci stavo. Se Bologna non aveva nessun tipo di coppa ed era nella situazione in cui è adesso, è un discorso che ti posso accettare. Così sembra un po' prematuro. Che poi italiano possa andare o meno, questo è facile, più probabile che facile, mettiamola così, anche perché è quasi certo che Napoli e qualcun altro insomma cambierà panchina, dopo lì si innesca il solito movimento, no? Di, a cui ormai siamo abituati. De Laurenti ha sempre detto che l'italiano è un allenatore che gli piace molto, e non credo che Conte sarà l'allenatore del Napoli la prossima stagione. Lo dicevamo anche la stagione scorsa, quindi le sorprese da quel punto di vista lì potrebbero essere dietro l'angolo, ma che faccia la terza diventa ancora più difficile. E l'altro segnale un po' così che non è quello di Helland, difensore acquistato per coprire una serie di buchi all'interno della scacchiera e della squadra del Bologna. Diciamo, sul mercato si è scelto di prendere un attaccante in meno e prendere un difensore in più, gli altri sono andati via più o meno a pari ruolo, no? Gli altri scambi sono stati più o meno a pari ruolo, si è scelto di prendere un giocatore centrale che però non è stato messo nella lista di Europa League, che vuol dire che l'allenatore considera Casale più sicuro del nuovo acquisto Helland. Beh no, in realtà in conferenza stampa italiana ha detto che visto che immagina di giocarle, cioè di giocarle, di avere il pallino del gioco nelle partite di Europa League, il lavoro degli esterni è quello più di sacrificio, quello più usurante, e quindi ha preferito tenere lunga la lista nel reparto offensivo rispetto a aggiungere un uomo, perché di aggiungere, non di sostituire, parla lui, per quanto riguarda i centrali di difesa. No, lui poteva togliere Casale, se sto Helland fosse meglio di Casale, poteva togliere Casale e mettere Helland, in realtà quella poteva essere una scelta. È anche vero che uno dice lo tengo per il campionato perché è giovane, perché il ragazzo comunque è giovane, però gioca in nazionale, mi sembra, no? Non è un ragazzino di primo pelo, ha giocato tra l'altro nel Bran, nella squadra proprio che andrà a affrontare il Bologna. Comunque questo sarà da vedere una volta che lo vedremo in campo. Per quanto riguarda il Bologna, diciamo, una delle poche note positive possiamo dire che è Rowe, che sta diventando quello che si sperava fosse. Beh, diciamo che a suo modo è in striscia, cioè le sue prestazioni sono positive da un po', manca il gol anche per pochi centimetri. Abbiamo visto ieri molto attivo e anche prendersi qualche conclusione non peregrina, cioè cose anche lucide, pensate bene. Quello che fa saltare appunto tutti i piani gara è l'uomo in meno dal 18esimo, che però viene interpretato dal Parma di questa in un modo visionario, direi, perché loro fanno di tutto per far finta di non avere l'uomo in più, cioè loro continuano a non giocare esattamente come hanno preparato la partita. Il piano gara era quello che siano 10, 11, 9, 8, se sono 7 forse qualcosa la possiamo cambiare, ma fino a quel numero lì noi ce la giochiamo così. Alla fine insomma la portano pure a casa, quindi il calcio è anche quello sport lì, all'interno di questa insomma particolarità maggiore che ha rispetto a tanti altri sport, non è detto che la più forte vinca la partita. Ah no, ma è bello per quello lì. E comunque ripeto, questo è un ragazzino spagnolo che sta tranquillamente portando la nave Parma in salvezza con nessuno. Adesso non vorrei essere esagerato, no, Bernabé, ok, il portiere, non mi ricordo come. Corvi, ok. Prima Suzuki, Corvi era il secondo portiere. Esatto, prima Suzuki, adesso Corvi, si appoggiano sul tasto tecnico che Bernabé alza, Pellegrino davanti fa il suo dovere, e questo qua, debuttante in Serie A, ragazzino, te la sta portando a casa. La sta portando a casa, e quindi insomma è qualcosa da seguire. L'altro problema, il problema del Bologna in questo momento è che non segna, fa pochi gol davanti, credo sia anche un problema della Sabellettese. Mamma mia, ma niente. No, ripeto, uguali, stessi colori, stesse difficoltà, stessi problemi, cioè, ma non so che dire. Colpa nostra, sarà colpa nostra. Sarà proprio, siamo noi. Siamo proprio noi. Può essere che sia quello. Dallinga e Castro non sono nel pieno della loro condizione. Dallinga, insomma, ha anche un po' criticato, perché il Bologna fa 800 cross tra i calci d'angolo, tra le cose, cioè, e non è che abbia dei crossatori così scarsi, è vero, non sono perfetto, però l'attaccante deve anche fare quel movimento che ti permetta di arrivare al cross, cioè che dia un senso a quello che succede intorno. Sì, e io vi ripeto, come va già detto un mese fa, due mesi fa, tre mesi fa, vale sia per la Samb che per il Bologna, ma un po' più per la Samb. L'attaccante deve fare i cazzo di gol. Questo è un gioco dove vinci, o perlomeno non perdi, se segni un cazzo di gol in più dell'avversario, ok? E noi, e quando dico noi intendo Samb e Bologna, non ci abbiamo nessuno che faccia questi cazzo di gol. Abbiamo un problema. È un problema, abbiamo sì, un in questo gioco è un problema, quindi rimane questa la situazione. In attacco non si è cambiato niente, anzi si è tolto Italiano, si è tolto Immobile dalla squadra, diciamo così, che era comunque la terza punta centrale, non aveva fatto molto fino adesso, quindi non ha cambiato molto. Il problema è che insomma tra Castro e Dall'Inga è un po' che non si segna da quel lato lì. C'è stato un buon Orsolini nel finale, è entrato però proprio alla fine, tra l'altro portando a casa un gran voto nel fantacalcio, non so per quale motivo, perché è stato molto pericoloso, ha preso un palo con una girata di quelle con apertura a compasso della gamba a 120 gradi, movimento tipico di Orsolini, e una volta prende il legno, la seconda volta esalta Corvi, che è l'uomo giusto nel posto giusto. È andata esattamente così, che dire, c'è stato del mugugno per il poco tempo dedicato a Cambiaghi e Orsolini, in realtà gli esterni erano Bernardeschi e Rowe forse i migliori in campo, quindi non mi sento di intervenire su questa cosa, che sembra più davvero un argomento da fantacalcisti che da tifosi del Bologna, perché comunque stavi andando bene in quella frangente del campo e hai dato l'impressione di poter essere pericoloso, e comunque rigiochi mercoledì. Esatto, rigiochi mercoledì. A questo punto, prima di passare alla top 5, diamo un'occhiata a quello che sarà il quarto di finale, che porterà a giocare la vincente contro l'Atalanta che, insomma, di cui abbiamo parlato anche abbastanza bene. Palladino è riuscito a girare come un calzino la squadra e riportarla più o meno ai livelli che conoscevamo prima, con l'interregno di Juric in mezzo, ovviamente non era semplice. È la Lazio l'avversaria, Lazio che un po' di mercato l'ha fatto, questo i primi giocatori entrati, ma soprattutto usciti, perché è stato un mercato anche di cessioni, con qualche forse giocatore che possa essere un po' più utile al sistema di Sarri. Ieri quasi mette nel sacco la Juve, quindi non mi sembra una squadra in crisi. Beh, sulla voglia di fare di Sarri io non ho mai avuto dei dubbi. Il tema in casa Lazio è l'ambiente, cioè sia a livello spogliatoio gruppo che a livello macro, a livello di società, il fatto che la proprietà faccia di tutto per destabilizzarsi da sola, anche in sede di mercato, è proprio il tema che fa impazzire i tifosi della Lazio da più di qualche tempo. Quando però si va in campo, evidentemente i giocatori, sia il blocco tra virgolette storico che gli appena arrivati, hanno ancora tanta fiducia nella guida tecnica di Sarri. Ah sì, e quindi la squadra comunque c'è, e appunto con il pareggio 2-2 a Torino con la Juve lo dimostra. E a questo punto ci sarà la sfida importante. È vero che ti porterà a giocare, può portarti a giocare una semifinale, però insomma a questo punto devi guardare anche la classifica, nel senso che la classifica ti dice che l'Europa inizia a essere parecchio lontana, l'Europa sopra, e ti stanno superando squadre come l'Udinese, ad esempio, di cui si parla poco, un po' per la difficoltà di accenti, no? È difficilissimo. È difficile proprio parlare dell'Udinese, gli accenti dei giocatori dell'Udinese. Anche perché se sbaglio un accento è molto facile che in realtà nella rosa dell'Udinese ci sia un giocatore con lo stesso cognome che però c'ha l'accento sull'altra. Quindi è una situazione pericolosa. È pericolosa. Comunque l'Udinese in questo momento appunto ha due punti in più del Bologna. In questo momento lo dicevamo ieri guardando Bologna-Parma, prima ancora del gol di Ordoñez, cioè quando c'era un punto ipotetico in cassetta e non la virgola che poi effettivamente marchiamo, in questo momento sembra più probabile vincere l'Europa League che agganciare il Como. Sì, in un certo senso questo. Perfetto Fio qua, perfetto. So che sembra paradossale, ma è effettivamente così. Questo è la situazione. Butta via. Ci teniamo l'Europa League, va bene, andremo in Champions attraverso l'Europa League. Se questo è la cosa negativa. Un messaggio al 33 180 94 94, ci dice: non si può tenere in panchina Orsolini. È vero che Orsolini quando è entrato ha scaldato un po' la situazione, però anche è vero che veniva da una serie di partite abbastanza incolori. Orsolini è quel giocatore lì che ha strisce di grande produttività e altre strisce, altri momenti in cui è un po' tranquillo. L'altra cosa che ho notato, tecnica, si è inventato una nuova finta, no? Che un nuovo movimento Orsolini, che però lo porta a giocare poi di destro. Cioè quella finta lo porta a usare il destro, cosa che lui non ha. Ha fatto suo il movimento di Zortea. Il movimento di Zortea sul cercare il fondo per entrare parallelo alla linea di fondo in area in cerca dello scappo, e da lì hai solo il destro per scaricarla in mezzo. E quindi è un problema. E quindi hai studiato una roba che ti toglie un po' di esplosività. Vi ho sempre avvisato sulle sue origini. È di Ascoli. Che cosa ti aspetti? Qualche limite lo dovrà pure avere, dici. Vabbè, comunque, il messaggio appunto era quello, l'abbiamo letto. A questo punto una canzone, uno stacco musicale prima della pubblicità e poi ci buttiamo dentro alla Top 5. Rientriamo dentro a questa seconda parte di Caffè Paglia. Basta, abbiamo capito, Inter di qua, di là, sì, c'è il regista che... Minchia, palle. Il regista oggi... Mamma mia, oggi... Si allarga un po', del resto questa suo primo posto, molto tranquillo. Sto trita carne chiamata Inter. Sì, trita carne, Sassuolo, dai, per cortesia. Col direttore sportivo che si lamenta dell'assenza della tifoseria avversaria, tra l'altro sacrosanta. Innanzitutto buongiorno. Prima ho letto sulla Gazza il classico titolo di quelli che mi esaltano: Stra Inter. Sulla Gazza, capirai. Vabbè, ci sarà anche un po' di Inter in Top 5. Aspetta un attimo, perché non si parte da lì, si parte da giù, se non ho capito male. Allora, come molte altre volte, questa redazione si deve confrontare con il grande calcio italiano prodotto da esportazione, perché la giornata non solo ha due partite oggi, ma finisce settimana prossima. Quindi oggi c'è Atalanta Cremonese e Roma Cagliari, due partite anche molto interessanti sotto vari aspetti, ma poi Milan Como si gioca mai. Quindi la giornata rimane aperta ad libitum, così la giornata per avere un massimo di esportabilità possibile è iniziata venerdì sera e in concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ci vuole della malizia, della cattiveria, forse anche un po' di crudeltà per programmare la classica delle classiche del calcio italiano prodotto da esportazione, Verona-Pisa. Sotto un certo punto di vista però è effettivamente un classico dei classici, una partita come quella che tutti si aspettavano venisse fuori e che in realtà è venuta perfettamente come tutti se la immaginavano. Però allora sono due squadre che sono dietro la Fiorentina, ci sono solo due squadre dietro la Fiorentina. Scontro salvezza per eccellenza. È lo scontro salvezza, se vuoi pensare di poter sperare, già sarà difficile perché comunque la Fiorentina con due debuttanti in panchina, con due allenatori debuttanti, è vero, entrambi cambiano l'allenatore per questa partita e viene fuori uno 0-0 con quattro tiri in porta in tutta la partita, sommando le due squadre, tra l'altro solo del Pisa, perché il Verona non le ha fatte, stavo dando un'occhiata alle statistiche, quindi 4-0 della partita e ti porti a casa un punto per 1 e arrivi a 15 punti, 3 punti alla Fiorentina, che però non è salva. I 3 punti servono, devi superare quella sopra, che sono i 21 in questo momento del Lecce, e quindi sono 6 punti. Non so quanto possa essere utile, anche se giustamente Fio prima ricordava un detto di un vecchio presidente del Pisa. Proprio lui, Romeo Anconetani, storico presidente del Pisa, clamoroso Pisa degli anni Ottanta, meglio due feriti che un morto. E questo 0-0 racconta questa cosa. In realtà, visto il posizionamento in palinsesto di questa gara in concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, io citerei anche un tema di un bambino napoletano nel libro Io speriamo che me la cavo. Mi piace il calcio perché si segnano molti gol, a differenza dello sci dove ci sono le porte, ma nessuno fa mai gol, e neanche a Verona-Pisa. Attenzione però, visto che viviamo nel paese oggettivamente, possiamo dire è il paese più bello del mondo, perché succedono cose tipo queste. Allora, il capoccia della sera che cosa c'ha? L'idea illuminante, ma perché non mettiamo un Verona-Pisa in controprogrammazione feroce alla cerimonia dei giochi olimpici di Milano Cortina? Mica cazzi. Qual è il paradosso? Che però quelli della telecronaca della diretta della cerimonia di apertura dei giochi olimpici, cioè la RAI, fa letteralmente di tutto per offrire una prestazione vergognosa. Cioè tu incredibilmente con Verona-Pisa potevi addirittura superare nello share quella che è stata una vera e propria vergogna di diretta, perché chiunque l'abbia ascoltata sa di cosa parla, anche perché leggo per fortuna che effettivamente ci sono state delle conseguenze, qualcuno si è cominciato a lamentare forte verso la RAI, e quindi io non so che dire. Cioè, quella che era una scelta suicida in apparenza, se te la giocavi bene, se ci fosse stato anche un gol per dirti ok, potevi superare quella chiavica di diretta. Cioè ragazzi, sì, staccavano e davano la linea, andiamo al 20 gol. Sì, probabilmente, c'è incredibile, un gol bellissimo del Pisa. E vabbè, questa è stata 0-0 che aiuta poco nella parte bassa che comunque è interessante, e vediamo qualcosa muoversi. Allora, mi è molto piaciuto il post della pagina social La Ragione di Stato, che raccontando un finale di partita specifico dice: conosciamo Di Francesco, è una persona assolutamente pacata, tranquilla, misurata, dalle reazioni sempre molto controllate. Se c'è una cosa che non sopporta è quando la Mac Banda fa gol su punizione al 90esimo. Quella è una roba che lo manda in bestia. Ed è così, succede così. Anche Lecce era una di quelle squadre che non vinceva da tanto tempo, un po' come il Bologna, ma Lecce ha vinto. La differenza è che il Lecce ha battuto l'Udinese, che tra l'altro è sopra il Bologna, quella di cui parlavamo prima. C'è un messaggio che dice: sì, ha giocato 10 partite in meno. Va bene, è vero. È vero, ok, però Di Francesco mette un piccolo mattoncino, però siccome tutti noi conosciamo Di Francesco, sappiamo che oltre alla Samb, oltre a Bologna, ci sarà pure quest'altra agonia da portarci dietro fino a maggio. Vediamo come va. In questo momento sono 3 punti importantissimi per la compagine di Francesco, che appunto raggiunge i 21 punti. 21 punti che vuol dire più 3 dalla Fiorentina. Questa è la situazione. Anche perché la Fiorentina gioca in casa a un avversario, diciamo, che è in discreta flessione, perché il Torino delle ultime giornate non ha veramente nulla a che vedere con quello che, con una prestazione quadrata, col baricentro bassissimo, mettendo un attaccante dietro l'altro in campo nella ripresa, ma abbassacorciando la squadra ancora, paradossalmente portò a casa un buon punto dal Dallara. Ecco, il Torino recente non ha niente a che vedere con questa cosa, va in casa della Viola che deve fare punti, ti aspetti faranno la partita della vita. Va in vantaggio il Torino con Casadei, la Viola la riprende con Solomon ancora una volta, e il ritorno al gol dopo qualche era geologica di Moise Kean, gol viziato da un fallo plateale, un gol che non al Dallara a noi non avrebbero dato buono mai. Cioè, perché quello è un fallo da provvedimento disciplinare, cioè da giallo, è fallo e giallo. Ma stai parlando dell'airstyle di Ken? Cioè, il fallo, la cosa brutta è quello lì? Anche, ok. No, del colpo di Vanga Harrison in occasione del recupero palla che porta il gol di Moise Kean. Vabbè, insomma, sembra una di quelle partite che ormai viene regalata alla società immobiliare Florenzia Viola. Non fosse che a un certo punto De Gea decide di provare la parata laser. cioè dice io ormai ho un livello di esperienza nei massimi campionati e posso fermare incrociando gli occhi fortissimo una palla che sta entrando in rete. Casadei salta da solo, la palla entra e il Torino pareggia allo scadere. Oddio, no, Maripane mi sembra che pareggia. Sì, Maripane, Casadei il primo. Secondo me però non ci arrivava lo stesso, Fio. È proprio nell'angolino, eh. Non è una mazzata di colpi di testa, però è proprio l'angolo là, secondo me non ci arriva. Ci poteva magari provare, però secondo me era è un pareggio che comunque dà, appunto, fa due feriti e non un morto. Esatto. Però in quanto per la Fiorentina ovviamente non è una buona soluzione, perché già pregustava i due punti che non avrebbero portato la squadra al livello di salvezza. È ancora lì, perché Lecce dopo avrebbe poi vinto la sua partita, però la lotta sotto comunque porta dentro anche altre squadre, in realtà. Sì, in realtà poi su De Gea io ironizzo, ma Casadei è da solo, cioè scusate, Maripane è completamente da solo. È vero, appunto, sì, da solo. Tra l'altro Torino che sarà il prossimo avversario del Bologna a Torino, e quindi vediamo un po' cosa può uscire, non posso fare nessun tipo di previsione, e quindi direi di andare avanti con la top 5. Siamo arrivati al quarto punto. Il terzo punto è una partitazza, anche questa è una partitazza, perché è una partita in cui succede qualunque cosa, ma viene risolta da un rigore trasformato allo scadere dopo un invito al VAR a dare sto rigore, perché sì, è un rigorino, si dà, ma è un rigorino, una partita in cui una squadra con l'uomo in 10 fa 3 punti contro il Genoa, una cosa che noi non abbiamo saputo fare, e invece il Napoli sì. Non vorrei dire, ma le ultime 3 partite del Genoa finiscono tutte 3-2, 2 le ha perse, 1 l'ha vinta, chissà contro chi l'ha vinta. E tutte oltre il 90esimo, se non mi sbaglio, con De Rossi in panchina non ci si annoia. E niente, Napoli che la porta a casa, come hai detto tu, una partita tostissima, perché appunto abbiamo appena detto che il Genoa ultimamente, cioè, te la fa sudare ben oltre il 90esimo. E che dire del Napoli? A me continua a sembrare l'unica vera alternativa a questi qua del regista nostro amico, bla bla, perché ok, sembrano, però non danno l'idea di, perlomeno in questo momento del campionato, all'Inter oggettivamente sta andando fortissimo. È anche vero che però non ha vinto neanche un big match, cioè le medie piccole proprio non le vede, gli passa sopra come un carro armato, e di solito i campionati si vincono esattamente così. Poi vediamo come va. Napoli, se non perdi punti, sì, con le piccole, esatto, soprattutto con i 3 punti, esatto, perché esatto, la vittoria ti porta 2 punti in più che il pareggio, quindi insomma è ancora più importante, soprattutto con le piccole. La prossima Inter-Juve già ci racconterà qualcosa, perché è uno scontro diretto, e l'Inter comunque un po' soffre. San Valentino, per chi deve venire allo stadio, chat GPT, trovare la scusa per liberarsi dalla serata di San Valentino è un'ottima idea, ma anche Gemini, perché Inter-Juventus è San Valentino, il giorno di San Valentino, l'anniversario del massacro di San Valentino, quello di Al Capone a Chicago. Senti quella storia, mamma mia, che si buttano lì in mezzo. Però torniamo al Napoli di misura, che comunque sì, porta a casa i 3 punti. Il ragazzino non ha brillato, però di nuovo decisivo, perché alla fine, e poi quando rilascia l'intervista nel post partita, lì deve capire che sta in Serie A adesso. Perché ok, io l'ho preso a ridere, i napoletani l'hanno preso a ridere, tranne gli interviste l'hanno preso un po' così. Non puoi lasciare l'intervista in cui dici chiaramente il rigore, cioè nel momento in cui mi ha toccato sapevo che praticamente era il rigore per forza, perché effettivamente il contatto c'è. Però ho pensato, oh che gioia, che fa ridere, oh che bello. Saramaca si è detto la stessa identica cosa, con meno ironia però, tipo 4-5 giorni fa, non di più. Però lui deve capire che non puoi sparare così spudoratamente, ok? È vero che si fa così, Antò, è vero, avrebbe fatto chiunque, però anche troppo sincero, anche diciamo, troppo. Il ragazzo. Però ancora 3 punti e porta di nuovo, anche quando non gioca brillante, trova il modo di essere decisivo. Bravo Antò! Ottimo Vergara. Possiamo invece dire tutto male sul reparto difensivo del Napoli, che è protagonista in negativo. Meret causa il rigore che apre le marcature dal dischetto. Buongiorno, causa il rigore. Sì, in effetti, sì, buongiorno. È una coppiata, diciamo. È un problema, perché buongiorno, in realtà, buongiorno è veramente un bel difensore. È in un momento in cui, se il mister decide di dargli 1/2 turni di riposo, anche perché c'hanno becche in mano, non è che c'hanno. Evidentemente esatto. Lo vede poco, lo fa giocare molto poco, si fida poco e buongiorno però insomma regala questo. Non si fidava nemmeno di Vergara. È vero. Bisogna anche guardare bene le cose. Beh, è opaca anche la partita di Beukema che entra in campo e crea la crepa in cui deve intervenire il già ammonito Juan Jesus che prende il secondo giallo. Esatto, bravo Fio, finezza di Fio qua, esatto. Conte ce l'ha questa cosa qua, prima di cominciare a farti giocare deve succedere veramente il finimondo. È uno dei grossi limiti di questo allenatore, che in realtà è un vincente, è un allenatore oggettivamente tra i più bravi, però il suo secondo anno porta sempre tanta fatica, soprattutto in questo periodo qua, quando invece è il momento in cui devi cominciare a entrare nel rettilineo finale, diciamo così. Vediamo come va. Continua a pensare che Napoli sia l'unica vera alternativa, ma va a singhiozzo. È vero che non avendo le coppe potrà concentrarsi sul campionato il Napoli, perché è stata eliminata la Champions, come spesso capita le squadre di Conte. Vabbè, questo è un altro discorso. E a questo punto guardiamo, andiamo avanti, andiamo alla quarta. Questa è la vera quarta, che è pure l'avversario del Bologna in Coppa Italia. Sì, è una quarta abbondante, possiamo dirlo. Il focus sulla Lazio è doveroso, perché è Lazio protagonista il big match di questa giornata, la partita con più temi, con più spunti, una partita che a momenti portano a casa e la svangano, e contro una Juve che, per riprendersi dalla stecca subita dall'Atalanta in Coppa Italia, deve comunque tornare a fare quello che sa fare meglio, cioè tendenzialmente giocare a pallone. La Lazio glielo fa fare completamente, lascia il pallino del gioco alla Juve finché Locatelli non passeggia per la tre quarti con un pallone lì che gli viene estirpato, e Daniel Maldini serve l'over quarantenne Pedro, che bolla allo scadere del primo tempo. Da lì può succedere qualunque cosa. Al ritorno dall'intervallo la Lazio continua a giocare nello stesso modo, lasciando il pallino del gioco alla Juve. Una palla, un bellissimo filtrante di Cataldi per Isaksen, che fa un grande gol, porta il parziale sul 2-0. La partita potrebbe essere finita, ma no, perché il pallino del gioco rimane ancora una volta alla Juve, che rimonta in due soluzioni, l'ennesimo gol quest'anno di McKennie, il giocatore più importante della Juve. Allora, questo americano qua, che ovviamente chi noi altri qua si conosceva già ancora prima, ne ho sentita tanta di merda su McKennie, ma proprio tanta, per il semplice motivo che questo, con ogni allenatore passato sulla panchina della Juventus, si è prestato a ricoprire qualsiasi ruolo della squadra, a parte penso il portiere. Il resto credo di avergli visto fare più o meno zona più, zona meno, qualsiasi cosa, perché la società non era in grado di tappare buchi, ed è pure un centrocampista che ti porta la doppia cifra di gol a fine campionato, c'ha l'acrobazia tra i suoi numeri. Gli si può contestare che effettivamente non sembra questo grande atleta, nemmeno un uomo disciplinato a tavola, soprattutto detto cheeseburger, cioè, detto cheeseburger, esatto, detto cheeseburger, sì, non sembra, però alla fine è uno che nel basket dice il clutch time. Lui è uno che fa quando c'è bisogno, capito? Cioè, è butta via, cazzo, un giocatore così è fondamentale, cazzo. Sì. Cioè, questo poi ogni anno McKennie in partenza, prestito di là, vendita di là, e invece poi alla fine ti risulta essere sempre quello, come dici tu, il clutch. Quando ci sta, c'è lui che dà la carica. Arriva un messaggio per Fio che ti chiede per chi vota McKennie. No, McKennie è un sincero democratico, ecco. Su questo non dovrebbe cheeseburger esserci, McKennie. Non dovrebbero esserci grandi dubbi. Speriamo. Oddio, a me è un gobbo, però a livello di rendimento assolutamente ha ragione Simone. Niente da dire. È un Johnny fondamentale. Risolve. Poi i centrocampisti, che oltre a fare i gol, ricordiamo, non si giudica mai un giocatore solo per la fase offensiva, ok, un centrocampista, però è uno che anche si fa il mazzo, regge il reparto, insomma, voglio dire. Avrebbe detto nella Prima Repubblica, non lo so, un Beppe Viola, di lotta di un centrocampista, di lotta e di governo. Esatto, entrambe le cose. Le sa fare, ha fatto anche il terzino, appunto, nel senso che se c'è bisogno di coprire il buco ha fatto anche quello. E poi, a proposito di terzini, è proprio Kalulu che segna con l'aiuto di Boga. Perché qui iniziamo a vedere il mercato, strano mercato di riparazione della Juve. Voi ve lo ricordavate, Boga? Oddio, sì, ma non avevo idea che giocasse ancora, tra le altre cose, eccetera. Lui è uno di quelli che hanno preso gli schiaffi a Nizza, ha lasciato una piazza in cui non ne potevano più di vederlo, non solo lui, anche molti altri suoi compagni, e quindi era sul mercato proprio o sì, cioè era in uscita da Nizza. Sarebbe potuto andare a finire ovunque, incredibilmente l'intelligenza artificiale che regola questo campionato ha deciso di appiopparlo alla Juve. Però entra in campo e serve il pallone decisivo. Serve il pallone decisivo, quindi insomma un aiuto in più per portare a casa quel pareggio che tiene la Juve ancora al quarto posto, ovviamente in realtà la Roma deve ancora giocare, quindi in caso di vittoria la Roma potrebbe solo raggiungere la Juve. Ma contro il Cagliari, non è facile, è una gran bella partita stasera. Non è una sfida facile, quella è diciamo la sfida, e poi deve guardarsi dietro anche dal Como che giocherà prima o poi contro il Milan, che con, in caso di vittoria andrebbe a due punti dalla Juve, quindi comunque è ancora in lotta anche per l'ipotetica posizione Champions, non solo per l'Europa League o Conference. Sulla classifica della Lazio invece sì, è lì come noi in un momento molto diverso della stagione, perché loro si stanno riprendendo dagli strapazzi subiti dal bullismo che la proprietà della Lazio infligge ai giocatori e ai tifosi e allo staff tecnico della squadra, che è una roba imbarazzante. Ditemi voi se io debbo solidarizzare con i laziali. Ebbene sì, anche questo. Ebbene sì, anche questo, anche questo. E ci giochiamo in Coppa Italia il proseguo della stagione in quella prestigiosa competizione che noi abbiamo appuntato al petto, ricordiamo. Insomma, sfida importante per entrambe le squadre, direi molto importante, anche perché la Lazio è una di quelle che le ha vinte anche ultimamente di Coppa Italia, no? Simone Inzaghi in panchina, credo, vinse un paio se non ricordo male. Sì, ma sì, più di, poi vinse col derby, vinse nel derby con la Roma, insomma, quindi, vero, Lulic, giusto. C'è anche quella, insomma, con la Coppa Italia ha un feeling diretto. Chiudiamo la top 5 con la vetta della classifica, ne abbiamo parlato, e questi Inter clamorosi. Devi dire qualcos'altro, c'è qualcos'altro da dire. Stra-Inter. Mamma mia. In realtà il pezzo si intitola Sassuolo in brodo di Marco Super. Allora, in realtà noi non vogliamo fare victim blaming, cioè dire a uno che ha preso 5 gol che li ha presi per colpa sua perché è la vittima sacrificale perfetta, però effettivamente è quello che è successo. Segnaliamo per i nerdoni del calcio che a un certo punto, con 2 assist, una traversa e un salvataggio sulla linea, Di Marco aveva un voto statistico di 9,7, che vuol dire che tipo ha sbagliato un passaggio orizzontale, ma perché era solo da pensiero, cioè non ha sbagliato niente. E posso, io non gioco a fantacalcio, ma mi dite quanto ha totalizzato alla fine Di Marco ieri? Che punteggio ha fatto? 11, 12, 8 e mezzo credo, perché il voto. Ce n'ha 3 di assist? Sì, oh, però è come un gol, perché l'assist vale 1, vale okay, il gol vale 3, e quindi se fai 3 gol sono 9 punti, se fai 3 assist è come se tu avessi fatto un gol, quindi capito. Vuoi dire qualcosa? Posso dire che con Luis Enrique e Emanuele Akanji sono 17 il numero dei giocatori dell'Inter che vanno a referto segnando almeno un gol in tutte le competizioni. Diciamo, può perdere uno scudetto una squadra che ha 17 giocatori che segnano? Non può, ma se il regista continua così io me lo auguro, ok? Me no, lo auguro, non è la roba, però per dire che è una squadra dove segnano tutti, cioè ha più soluzioni. Segnano tutti, tra l'altro il gol di Lautaro ieri lo fa agganciare Boninsegna tra i marcatori all time dei nerazzurri. Se volete poi mi ci andate da un'altra parte. È San Valentino, okay, fra poco è San Valentino, okay. E quindi noi insomma ovviamente, del resto la squadra si chiama Internazionale. La grande Inter, il momento in cui va tutto bene, e appunto con le medie e piccole effettivamente sembra divertirsi, sembra fare un altro sport, proprio le disintegra, nemmeno le vede le squadre da metà classifica in giù, e niente, ma niente da dire. Non aggiungiamo niente, vuoi aggiungere qualcosa? C'è la pubblicità che incombe. Sarebbe stata una partita più decorosa se non ci fosse stato quel millimetrico fuorigioco, ormai il fuorigioco automatico è quella roba là, stacce, il gol annullato al Sassuolo alla fine del primo tempo, che poi è prodromo di una serie di catastrofi, tipo prendere 2 gol appena tornati dall'intervallo. C'è la tecnologia, usiamola. Però sì, hai ragione comunque. E c'è anche la pubblicità, ascoltiamola. Terza parte di Caffè Paglia, tutti pronti, la parte dedicata al calcio internazionale, siamo pronti a partire. Sento anche la base, quindi è giusto il momento per sentire lo stacco del nostro grande Fio. la la la la bellissimo, bellissimo, bellissimo, meraviglioso. Comunque, ragazzi, siamo vicini all'impresa del barbiere, eh? Avete visto, avete notato in Premier League cosa è successo? Il Manchester United ha vinto la quarta partita consecutiva e quindi quel cappellone sta per essere finalmente rasato. E quindi perché caricare la casa sulla vittoria del West Ham contro il Manchester United al prossimo turno? Potrebbe essere, perché West Ham sta giocando malissimo, deve essere anche data alta la quota e appunto potrebbe essere la partita. È un Manchester United che sembra una squadra di calcio, già questa è una sorpresa. Posso dire sono contento, perché ero un po' stanco di sto Manchester City che faceva gli averci sempre tra i coglioni i fratelli Gallagher che fanno i fenomeni, quando non mi sembrano due tizi che possono mai poter parlare di calcio questi due, cioè. Tra l'altro molto meglio i Blair da sempre, ma tutta la vita. Loro invece arrivano da che squadra è i Blair, non mi ricordo. Tifosi di che cosa? Lo sappiamo. Poco tifosi, tendenzialmente del Chelsea, quindi non benissimo. È vero. Però non appassionati. Esatto, ok. Quindi adesso è ora che si ritorni un po' alla Manchester, che insomma tutti noi ci ricordiamo. Sono molto contento di rivedere finalmente un po' di rosso tingere questa città, che mi ricordo bene la moglie di un ex giocatore dipinse come bella come il retro di un frigorifero. Quindi, cioè, se già una città è così, anche almeno lo United insomma torni ad essere. Oh, va questo Carrick in banchina? Sì. Va, il ragazzo va. Molto contento, bravi loro. Bello. Vince 2-0 col Tottenham, è vero che il Tottenham quest'anno non sta facendo una buona stagione. Tottenham che rimane in 10 al 29esimo e da lì è tranquilla, diciamo. Eh sì, deve guardarsi dietro il Tottenham, perché appunto il West Ham, che sarà il prossimo avversario del Manchester United, ha solo 6 punti meno, e sarebbe retrocesso, del Tottenham, quindi deve guardarsi assolutamente dietro. Il Manchester invece è entrato nella zona zona Champions League, insomma è quarto in questo momento, sopra 3 punti c'è l'Aston Villa e il City, che ha 6 punti a questo punto dai cugini, insomma rimane in vetta sempre con 6 punti, tutti staccati 6 punti praticamente, c'è l'Arsenal che continua a vincere. Sembrava che avesse trovato un attimino un momento di difficoltà, affrontato bene, perché c'è stata subito la reazione dei ragazzi di Arteta. Vi fidate, vi cominciate a fidare, perché io ancora no. Comunque una squadra interessante, una squadra che ha le possibilità di portare a casa il risultato, ha questa capacità di lavorare sui giochi di calcio piazzati che è veramente incredibile, e quindi quello nel calcio moderno ci sono tante situazioni che ti possono portare al gol. E l'avversario, vabbè, abbordabile Sunderland, nelle marcature fa doppietta Gyökeres, ma apre le danze uno dei nostri pupilli, Zubimendi. Giocatore bellissimo da guardare, proprio bello, cioè estetica di idea del calcio. Del calcio spagnolo e nello specifico del calcio basco. Ok, sì, qui un giocatore che letteralmente noi qua dello staff non possiamo non amare la follia, bravo lui. Il concetto di Arteta è buona la difesa, cioè tieni bene la difesa e studi un sacco i calci piazzati, prima o poi la porti a casa, cioè veramente in questo vedo tanto allenamento, tanta voglia di portare poi sul campo quello che si è provato. Mi ha colpito molto il calcio d'angolo, quello contro Bayern, con tutti i giocatori che corrono verso il portiere per dargli fastidio e la palla che cade, ce ne sono tanti tipi diversi. Quella tipo l'evoluzione 3.0 del trenino sul corner degli anni 90. Bravo Fio, esatto. Quello è proprio una roba incredibile, ne hanno vari da usare nelle varie situazioni. Punticino anche striminzito dell'Aston Villa, che va in vantaggio sul campo del Bournemouth, poi smette di giocare a pallone, Morgan Rogers segna il primo gol, vengono ripresi da Ryan nel secondo tempo, un punto, non succede niente e l'Aston Villa perde qualche punto dalle prime posizioni. Continua la stagione nera del Liverpool, che vabbè perde con la acerrima nemica di questi anni in casa, è sempre una roba nonostante i grossi investimenti, tra l'altro fatti anche a gennaio, cioè già avevano speso tutti quei soldi nel mercato estivo, li hanno spesi ancora sul mercato di gennaio. Vanno in vantaggio poi, tra l'altro, sono in vantaggio, il City la ribalta tipo negli ultimi 5 minuti di gioco, una cosa del genere, e c'è anche tempo per un mega paratone di Donnarumma sull'ultimo tentativo del Liverpool, e niente, Guardiola fa il sacco di Liverpool. Beh, ce l'ha. Io non sopporto più Szoboszlai, cioè non, mi dà un nervoso, non ce la faccio. Tra l'altro lui nel tentativo di non si sa cosa fa, fallo su Haaland da ultimo uomo, si fa espellere, il fallo è fuori dall'area, quindi è rosso e calcio di punizione nel finale, dopo aver portato i suoi in vantaggio al 70esimo. È un giocatore, sì, il talento c'è, però deve stare calmo, cioè non ha la lucidità per fare il calciatore di lavoro. È stranissima sta roba, perché è anche un po' sfortunato, perché esulta sempre tantissimo nei modi più spettacolari, sembra sempre che se la tiri addosso da sola. Oh, bolla una pera della Madonna, eh. Il destro ce l'ha, su questo non si discute, la capacità tecnica di calcio indiscutibile. L'ho visto recentemente dal vivo, è un animale, cioè no, tanta roba. Per carità, giocatore. Ogni tanto c'ha la sua... La bocciata sua, la fa e tanta sbaglia. Roba, pensate che in questo momento il Liverpool si potrebbe qualificare per la Conference League e probabilmente sarebbe la favorita. Della Conference League. Che te lo immagini il Liverpool in Conference League? Secondo me sarebbe la favorita della Conference League, così a occhio, a naso. Non ho ancora visto le altre, ma comunque sarebbe la favorita. Comunque dici, dai, ho speso 550 milioni per fare la Conference League, dai, è stato un buon investimento. Non so, perché poi questi l'anno prossimo farebbero comunque campagna acquisti, quindi se diventerebbero ancora più soldi investiti. E che ti devo dire, la Premier League c'ha queste situazioni che non sono male, questo bisogna riconoscerlo. E vediamo come evolve questa Premier. Ripeto, non so cosa darei perché l'utopia Gunners alla fine si materializzasse, ma non riesco ancora a fidarmi. Ancora a crederci. Intanto in area Conference League il Nottingham Forest perde sul campo del Leeds ed è l'ultima delle salve in questo momento. È una squadra che ha fatto il suo bel mercato. C'è anche Lorenzo Lucca che ha segnato... gol inutile nella sconfitta per 3-1. A proposito, esattamente su Luca che volevo andare, mi sembra di aver intercettato un post da un qualche cazzo di suo canale social, di quelli per i giovani, diciamo così, in cui sembrerebbe che Luca abbia scritto qualcosa tipo perdonali perché loro non lo sanno, postando una foto di lui che esulta. Ora, Lore, a me piace pure come giocatore. No, un po' meno, anche meno, anche meno, anche meno. No, e se uno litiga con Conte quasi sicuramente ha ragione, ma anche un po' meno va bene. Anche meno, dai, su. Anche... Si creano hype da solo, ci vuole i social network, sai. Ho capito, ma addirittura riferisce a Gesù Cristo. Magari manco l'ha scritto lui il post. Un filo esagerato. Beh, allora, di a chi di dovere, anche meno. Diglielo a chi di dovere. Cambiamo campionato in Spagna? La settimana prossima posta, venite con me e vi farò pescatori di uomini a casa. Questo potrebbe essere. Vedremo, lo seguiremo. A questo punto seguiremo i profili social. Ma come cazzo fai a scrivere cose così? Comunque, andiamo in Spagna, dove le due avversarie vincono entrambe, le due storiche avversarie, Real Madrid e Barcellona, vincono entrambe e continuano la corsa al campionato con un punto di distacco, quindi tutto ancora molto molto aperto. Posso dire però che il design, compreso soprattutto il colore, la tonalità di blu scelta da Adidas per il secondo kit away del Real di quest'anno è notevole, è bella. È una bella divisa, è un bel blu, non è la prima volta che il Real ha la divisa tutta blu, e questa è davvero proprio bella, col trifoglio vecchio di Adidas, bravi, niente. Ogni tanto, insomma, qualcuno che fa bene il suo lavoro nelle magliette, giusto sottolinearlo, serve per vincere contro il Valencia, usava quella, vero? 2-0, mentre il Barcellona vince 3-0 con Mallorca e fa esordire un altro giocatore della cantera, siamo a 13 in questa stagione, quindi sono giocatori creati dal settore giovanile, no? Tanto, hai visto che gol che timbra Bernal, hai visto con che finta mette a sedere il difensore, raga. Oh, il Barcellona, questo è una macchina che produce di continuo quei 5-6 giocatori che poi magari non hanno una carriera leggendaria nel basso, ma comunque te li ritrovi negli 11 titolari di tutte le altre squadre della Liga, perché magari stanno allo Osasuna, che cazzo ti devo dire, vanno in prestito alle spagnole, e comunque le loro carriere le fanno. anche non magari da superstar, ma è sono giocatori. Producono giocatori. Producono giocatori, poi non tutti possono essere superstar. Livelli, se tu continui, produci sempre comunque giocatori che poi ti stanno in Liga oppure in qualche altra serie maggiore, in qualche altro campionato, ragazzi, cioè tanta roba. È un lavoro importante, sì, evidentemente, insomma, rimane quello una delle basi su cui poi si basa il lavoro del Barcellona. Marco Bernale ha 18 anni, è un 2007, e insomma ha già 10 presenze in campionato, un gol, un assist, quindi insomma Vergara ha 23 anni e inizia adesso ad avere queste in Serie A. Vergara ha queste statistiche, esatto. a 23 e ovviamente la colpa non è del ragazzo, anzi bravo Nico che mi permetti una domanda. Immaginate un giocatore del talento di Vergara con però alle spalle il percorso calcistico del Barcellona, mi spiego? Cioè immaginate un Vergara con già tipo 100 presenze in Serie A, 30 in Coppa, numeri su numeri, minuti, giocare a fianco di mega campioni così per già 4-5 anni, immaginate che giocatori avevamo adesso. Esatto, questa è la situazione, la differenza un po' rimane quella. Per quanto riguarda le altre, l'Atletico Madrid perde in casa contro il Betis e quindi si ferma con ormai molto distaccato a 12 punti dal Real Madrid, quindi il terzo posto ormai, cioè, i primi due sono già assegnati, diciamo così. E segnaliamo la vittoria a Vigo dell'Osasuna, va in vantaggio con il solito, ormai solito Ante Budimir, la riprende Borja Iglesias dal dischetto e Garcia allo scadere all'ottantesimo porta i tre punti alla squadra ospite basca e rossoblù. Segnaliamo che non si è giocato Rayo Vallecano Real Oviedo perché il campo era impraticabile. C'è una contesa che riguarda lo stadio del Rayo Vallecano, la proprietà. Il Rayo Vallecano è la squadra del quartiere più rosso di Spagna, Puente de Vallecas, che è come se fosse una municipalità di Roma, fa tipo 300.000 abitanti, ha una squadra con un forte radicamento sul territorio. La società è stata comprata da un imprenditore vicino all'estrema destra che vuole fare uno stadio nuovo fuori dal quartiere, e chiaramente né la tifoseria né l'amministrazione locale è contenta di questa cosa, e lui ha deciso di smettere di fare manutenzione allo stadio in cui gioca. Il campo era impraticabile, i tifosi che venivano da Oviedo, che non è neanche vicinissimo, lo hanno scoperto quando erano già arrivati. Tra l'altro Oviedo ultimo in campionato, quindi partita per loro decisiva. Segnaliamo che non solo l'Osasuna ma tutta la regione basca ieri trionfa, perché vincono anche Real Sociedad e Athletic Bilbao, finalmente un bel trionfo basco, e sono tutte in fila in classifica, all'ottavo posto la Real Sociedad, nono Osasuna, decimo l'Athletic Bilbao, tutti in fila lì le squadre basche. In vista Europa c'è, diciamo così, c'è la possibilità ancora di giocarsi, ovviamente Europa League, non Champions, però c'è ancora qualche speranza. Stavo dimenticando, nell'Athletic Bilbao poi alla fine è entrato anche il ragazzino di cui abbiamo già parlato, quel Selton Sanchez, che è una delizia per gli occhi tra il centrocampo e la tre quarti avversaria, segnatevelo, proprio bravo. È entrato nel 4-2 della vittoria 4-2 con Levante dell'ultima settimana. Bene, cambiamo campionato, andiamo a vedere cosa è successo in Bundesliga, dove diciamo le cose sono abbastanza chiare. Il Bayern ha vinto 5-1 e si era fermato, aveva pareggiato, ha anche perso, un pareggio e una sconfitta, secondo me in fila, quasi crisi, aria di crisi nel Bayern Monaco. Fa doppietta Kane ma fa tripletta Luis Diaz. Ah, ok, quindi la statistica è salva. E appunto la vittoria porta a mantenere il vantaggio, perché anche il Dortmund vince contro il Wolfsburg, i punti rimangono 6, comunque non sono un'infinità, ecco, diciamo così, dopo questi passi falsi delle scorse settimane, quindi il Bayern è lì. Per quanto riguarda la lotta per la retrocessione, Heidenheim ormai quasi condannato a 13 punti, il San Pauli ha ancora qualche possibilità, se la gioca, a 17 punti, però in vista, diciamo, spareggio o salvezza. Sì, ma vince con lo Stoccarda, sono tre punti pesantissimi, ma in realtà le altre invischiate nei piani bassi fanno tutte punti, quindi è ancora lì nella zona, nella zona brutta vera, in realtà è a due punti dalla possibilità di riattaccarsi al gruppone di quelle a 19 in questo momento, che si contenderanno un posto da salva e un posto nello spareggio. Sì, infatti due punti, potresti essere sia salva o a fare lo spareggio per quanto riguarda il San Paoli. Il mio Colonia continua la sua stagione tranquilla, perde contro il Lipsia ma rimane lì al decimo posto, e quindi insomma è quello che era nei nostri piani. Mentre cambiando campionato, ho visto molto bene il Mechelen di Simone in Belgio. È un Mechelen che vince 2-0 con l'Anvers e si fionda nella zona pur scudetto. È tutta la stagione che fa su e giù nella zona, della zona scudetto, vuole lasciare la zona conference, dove invece plafonato lo Standard Liegi, che perde 3-0 proprio per poter rimanere lì alle Standard contro gli odiosi Club Bruges. Comunque contro quelli del Club Bruges 3-0, e quindi ti hanno detto i tuoi amici dello Standard che non sono contenti della partita, ma sono contenti della classifica. Ah, ok. Un po' come me. Un po' come te, giustamente, perché lo Standard Liegi da nono può stare lì nella conference zone. Collegiatissimo, sta lì, aspetta che l'entropia faccia il suo dovere. Bravi. Mentre il Mechelen in questo momento è addirittura quinto, quindi dentro pienamente a quella che sarà la pool scudetto. Noi invece abbiamo deciso di fare il passo, quindi di entrare nell'orizzonte degli eventi e vedere che aria tira. Vediamo com'è. Giocarsela fino alla fine, chissà che non troveremo un Mechelen scudettato. La possibilità c'è, perché tanto dimezzano i punti, quindi di tutto si può rigiocare. Se sei in forma, se arrivi in forma giusta a giocarti le ultime 12 partite, puoi anche ribaltare. Sappiamo poi, arrivato a un certo punto, si entra proprio nella quantistica nel campionato belga, quindi poi ne riparleremo. No, quando saremo lì lo andremo a vedere. Comunque in vetta c'è ancora Royal Union di Saint-Gilloise con 52 punti e il Saint-Truiden, che è un po' la sorpresa di questa stagione, al secondo posto con 48, davanti al Club Bruges e l'Anderlecht, sono le nobili di questo campionato. Non ho visto cosa è successo in Francia, tu l'hai vista? Tu hai visto? Ho fatto in tempo, ma ho letto di una manita pesantissima del PSG in faccia a De Zerbi, però. Il Marsiglia, quindi Marsiglia perde 5-0 dal Paris Saint-Germain e vince anche Lens, che continua la sua corsa a due punti sotto del Paris Saint-Germain, quindi il campionato comunque aperto. Il Paris Saint-Germain è favorito ovviamente, però il Lens un po' a sorpresa, diciamo così, è insieme in scia, diciamo così. Poi c'è il Lione al terzo posto. Il Lione è in formissima, 15 punti nelle ultime 5 partite, è l'unica che tiene il passo al Paris Saint-Germain. Credo che dovrebbe essere all'11ª vittoria consecutiva, vincono tipo da 2 mesi senza prendere pause. Hanno aggiunto quello che secondo me è un fenomeno in attacco, cioè hanno preso Hendrick in prestito dal Reale, che sta insomma facendo a pallate contro i portieri francesi. È stato espulso nell'ultima giornata. Un po' focoso, però li stava prendendo veramente a pallate. Troppo, perché è stato espulso, e quindi non giocherà la prossima. Però sì, il Lione, stavo dando un'occhiata, è una serie di vittorie clamorose proprio dall'arrivo di Hendrick, e quindi vince 1-0 in trasferta. Segnaliamo il debutto con la maglia del Paris quell'altro di Paris FC di Ciro Immobile, che viene schierato titolare, gioca quasi 80 minuti, produce molto poco. In trasferta però, contro l'Auxerre. Sì, 0-0. Ex euro rivale della Fiorentina, se non sbaglio, giocò con l'Auxerre. Giocò, sì, può essere. Il buon Immobile appunto gioca non tutta la partita, esce fuori appunto alla fine, però le gioca buona parte senza fare molto. Squadrina ambiziosa, certo. Il Paris FC, attenzione, guarda che i proprietari del Paris FC, esatto, non è che sono gli ultimi, è tipo il, non so se il gioielliere più ricco di Francia, qualcosa del genere, insomma, è gente che la moneta ce l'ha, non so se pareggia la potenza economica del PSG, però vediamo. In questo momento è Parigi, qui. Le grandeur, sì. Sono una squadra grande, arrivo pure io che sono un altro miliardario. Sì, ne faccio un'altra uguale. Ed è quindicesima in questo momento, quindi non messa molto bene, anche se l'Auxerre, che è la squadra con cui ha pareggiato, è a 8 punti di distanza ed è sedicesima, quindi è la prima salva al Paris FC con un buon margine sulla prima, che invece fa lo spareggio. Credo che anche in Francia ci sia lo spareggio della terz'ultima con la terza di una Serie B, diciamo così. Che a me non dispiace, c'è stato, l'hanno fatto per un po', qualche volta, anche in Italia mi sembra, no? Qualcosa, mi ricordo un Torino-Perugia, qualcosa di... Non era lo spareggio per venire in alto. No, era solo playoff, non c'era qualcosa da... Era per non retrocedere in B. Ah, forse era uno spareggio per non retrocedere. Quello che abbiamo perso noi col Parma, per l'appunto. Quello era per non retrocedere. Per non retrocedere. Non c'è mai stata una roba, una sfida tra A e B? Non segnò, mai... Fio, segnò Iglitare. Sì. All'andata. All'andata. All'andata. E poi Girardino, che era squalificato, al ritorno fece doppietto. E Morfeo anche. Con un grande Nicola Legrottaglie, protagonista assoluto della gara di ritorno, con una prestazione meno che imbarazzante. È vero, è vero, lì stava leggendo la Bibbia in quel momento, quindi era in un passo diverso. A questo punto siamo alla San Benedettese, perché stavo terminando lo spazio. Bisogna dire che qui le cose non vanno per niente bene. No, abbiamo il blocco Riviera delle Palme, e questa cosa è davvero incredibile, perché hai le... senza esagerare, senza volersela tirare, ma tu hai probabilmente la miglior tifoseria del girone, perlomeno in casa, non vai mai sotto di 5-6 mila presenze, la curva sempre piena, dovresti letteralmente mangiarti quel cazzo di terreno. Ma niente, raga, vince, settima sconfitta casalinga, ed è il numero peggiore di tutto il girone. Passa pure Perugia con una prestazione normale, anche ieri ti divori quei 2-3 palle gol che ti servono appunto per vincere, non si segna, si costruisce poco, quel Candellori spostato a destra, mi dicono, perché poi non sono riuscito a vedere la partita, ma mi dicono Candellori tipo esterno destro, non si è capito bene le intenzioni. So che c'è stata una lunga riunione tra la società e il coach insieme al capitano Seppi sono dovuti uscire fuori ad andare a parlare con i ragazzi della curva, un centinaio, così ho visto le immagini, così mi raccontano, un centinaio dei nostri ragazzi a colloquio con capitano e allenatore. Speriamo che insomma si siano capiti, che si siano chiariti, però raga, noi così si torna giù dritti se non cominciamo perlomeno a segnare. Ti dico, già abbiamo cominciato a giocare in 11 ed è già un miracolo. Adesso bisognerebbe cominciare a... siamo proprio alle basi qua, bisogna, come se fossero bambini. Adesso dobbiamo cominciare a fare gol, poi forse dobbiamo cominciare a vincere la partita. Sì, anche quello. Gira male, butta male. Allora, per vincere una partita occorre segnare, questo è abbastanza certo. L'ultima vittoria è a Forlì settimane, quindi neanche troppo, sono 3-4 giornate fa, però il problema è che quella precedente è addirittura al Torres San Benedettese di ottobre. Allora, cioè, tu fuori casa pareggi, ogni tanto la vinci una, fuori casa c'è un bel rendimento, in casa sei proprio male, te non riesci nemmeno a pareggiare, nemmeno zero, però, cioè, le stai perdendo tutte in uno stadio che invece ti garantisce tifo, passione, attaccamento alla maglia e tutto quanto. Fuori dallo stadio della Samba c'è scritto il tempio del tifo, il tempio del tifo, che però evidentemente non riesce a portare punti. Andiamo in pubblicità e poi andiamo con l'ultima parte di Caffè e Paglia. Ultima parte di Caffè e Paglia di quest'oggi, quella dedicata al fritto misto di sport, essendoci le Olimpiadi, un po' un occhio alle Olimpiadi. So che Dado non è d'accordo, però un occhio alle Olimpiadi glielo diamo. Pioggia di medaglie per gli italiani, che fanno il record di medaglie in un giorno, 6 medaglie. C'è già il primo oro, lo vince Lollobrigida, la Lollobrigida, parente dell'attrice Lollobrigida, quindi... ma non del ministro. Non del ministro, quindi solo dell'attrice. La quota MSI a questi giochi olimpici è in capo a Rai Sport. Esatto. Tranquilli, per quello, sereni. Io volevo dare una abbracciatona a Gali, che ha portato al mainstream internazionale il grande poeta e compagno Gianni Rodari, uno dei miei spiriti guida. È vero, è vero. Anche io volevo dare un abbracciatore a Charlize Theron, però, perché era veramente una cosa grossa. Non so se l'avete visto. Adesso politicamente scorretto, come sempre, il buon Simone. No. Ovviamente abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, il biathlon italiano ha già portato una medaglia importante, l'argento nella staffetta, poi ci sono stati vari, tra l'altro stavano andando bene anche la coppia di curling, che continuo a definire uno sport un po' strano, cioè praticamente vince chi tira per secondo, cioè, quasi sempre, e devi sperare la partita perfetta, finisce sempre 1-0 per ognuno, e sperare che qualcuno faccia l'errore, perché se non c'è l'errore giochi bene. È inutile che me la racconti con questa passione, con questi tecnicismi, queste cose, perché secondo me già usare la parola sport, ripeto, a carding. Ma perché? Dai. Faccio una grossa fatica. Le bocce. Anche il subbuto era uno sport. Subbuto, allora. Piace. Allora, ragazzi, adesso non scherziamo. C'è gente che si è operata l'indice. Per essere più forte. Ci sono il muscolo. Cerchiamo di rimanere lucidi, okay? Ok? Ci sono comunque notizie di questo tipo, ad esempio, non so se avete stavo seguendo il podio del pattinaggio, penso artistico, la squadra penso mista, giapponesi e americani, oggettivamente di un altro pianeta, ma noi un gran bel podio. Molto il bronzo, ad esempio, un bronzo anche in quello. Non so se avete sentito che ci sono, c'è un stanno studiando, capendo se può essere considerato doping farsi punture. Oddio, l'ho letta sta cosa. Sul pisello prima di fare la gara. Dire usare il termine pene per sul favore. Pene, scusa. Prima di fare la gara di salto con gli sci. Si tratta di iniezioni di acido ialuronico che è molto utilizzato nel mondo del, chiamiamolo, make-up esteso, no? Sono quei piccoli, quelle piccole infiltrazioni che si fanno per mantenere tono muscolare. Lo scopo di questa cosa è, adesso lo dico in modo più radiofonico possibile, avere le stesse misure a riposo di quando non è a riposo. Questa cosa sposta il baricentro avanti di quel minimo e in un salto dal trampolino può allungare, può essere propedeutico ad allungare il punto di atterraggio. Sì, cioè perché è aerodinamico, cioè essendo in fuori nella tuta che è molto stretta, tra l'altro voi avete presente il salto con gli sci? Vale anche per la regola del fuorigioco, parlo di calcio. Potrebbe essere il inserito. Al contrario, al contrario, deve essere fatta al contrario. Studiare qualcosina. Comunque, cioè, voi avete presente il salto con gli sci dal trampolino? Sono o 90 metri o 120 metri. Cioè, tu parti con due sci da un lungo trampolino, appunto, e poi stacchi il trampolino, prendi tanta velocità, poi c'hai pure il dente per salire e poi voli a 120-130 metri dalla partenza e devi atterrare. Cioè, l'atterraggio, cioè, è interessante, no? Come tipo di sport. No, è tutto molto interessante. Non so più che dire io, francamente. Se siamo arrivati a dover fare delle iniezioni di acido ialuronico sulle parti intime per poter guadagnare penso lo 0, qualcosa nel CX, in aerodinamica automobilistica sarebbe il CX, cioè la capacità di penetrazione dell'aria. Di penetrazione si parla. Non so, veramente tutto non a caso, ancora in fascia protetta. Però non a caso penetrazione, che è proprio abbiamo la parola. Comunque il salto dal trampolino ha il superpotere di produrre ecomostri che secondi solo alle piste di Bob, che le piste di Bob più o meno le puoi ancora utilizzare, mentre invece il trampolino per saltare con gli sci rimane là. A oltraccia, in Norvegia, a Lillehammer, dal 92 c'hanno ancora il trampolino montato e escono di casa, lo guardano qualcosa, dicono: ti ricordi quella volta che abbiamo fatto? 92, passati 34 anni. E tra l'altro, so, quelli che fanno questo sport, quanti sono? Lo so. 200 in Norvegia, che già sono tanti, e sono 200, cioè è un trampolino che rimane per 200 persone. Ti spassi in tutto il paese, poi non è che vivono tutti di fianco al trampolino. Ma qualcuno è a Oslo per allora, se però tu sei arrivato a farti punture sul pene per andare più forte, secondo me prendi anche la macchina, vai a Lillehammer a buttarti da lì. Oppure prendi una casa a Lillehammer di fianco al trampolino. Abbiamo dedicato troppo poco, è un errore gravissimo, tempo all'esterno della cerimonia d'apertura, oggettivamente bellissima, oggettivamente vedere Alberto Tomba e Deborah Compagnoni come ultimi due tedofori è stato toccante, è stato molto emozionante. Poi c'è stata la sfilata di tutte le nazioni e lì è partito l'incredibile bracket della divisa più bella, perché cioè, qua è proprio per quelli come noi esteti, è stato davvero un trionfo. La mia personale preferita, fai la classifica, facci allora, la tua classifica. Allora, mi è piaciuta molto la Mongolia perché si rifaceva a quell'impero gigantesco dell'epoca. Mi dicono, l'ho visto solo di sfuggita, ma il poncio smanicato del Canada, notevole. Ma la mia preferita il lavoro che fa Adidas per il jacket, metà poncio lungo fino a sotto le ginocchia che Adidas fa per la Germania è davvero incredibile. La Germania, davvero, sì, lavoro pazzesco, divisa pazzesca. Ci tengono i tedeschi. I tedeschi che su questo ci tengono e spesso lo azzeccano, eh. A me è mancata molto la federazione sciistica senegalese, che ricordo dai tempi di Alfio Muschio, a mai dire gol, quelle Olimpiadi, quella volta in cui Alfio Muschio si spacciò insieme all'atleta che si chiama Lamine Gueye, me lo sono appena andato a cercare, diedero la mano al re Juan Carlos, presentando tutti i cialtroni, tutti. Bellissima vicenda. Era bello, sì, in effetti ci sono poi queste note di colore, un po' come il bob giamaicano, insomma ci sono anche queste. Non è male la divisa dell'Italia, molto molto basic, nel design ricorda tantissimo una maglietta che disegniamo qua e ve l'ho fatta anche vedere, per, con il tricolore sul colletto, il tricolore all'interno della manica, niente male, fa la sua bella figura il nostro presidente Sergio Mattarella, un bel cappotto lungo, molto elegante quando pronuncia il discorso iniziale della cerimonia d'apertura, tutto molto bello. Ho avuto, prima ieri ti abbiamo pensato in famiglia, perché nella discussione guardando le Olimpiadi mio figlio mi ha detto, ma perché noi che abbiamo la bandiera tricolore siamo azzurri mentre tutti gli altri hanno le divise legate al colore della bandiera? Marcos, amico mio, scusa, adesso te lo spiego subito, perché all'epoca dei fatti i nostri regnanti, quei codardi dei nostri regnanti, erano innamorati della Francia e quindi decisero di prendere in prestito questo blu, però facendolo un po' più chiaro. Cioè, tu dirai, ma non ci sono più i re, quei maledetti farabutti? Lo so, ci siamo tenuti sta cosa qua e continuiamo a vestirci a cambio, cioè, con quell'azzurro che sarebbe un blu Francia sbiadito. Esatto, un po' detta blu. Detta in parole povere, detta proprio facile. Tutte le altre squadre, notava che tutte le altre nazioni. Beh, la Germania avevano... adesso non so per le Olimpiadi, però la maglia bianca. No, la Germania ce l'ha bianca, ma sempre con c'è sempre con la bandiera, sì, c'è sì, sempre sì, da qualche c'ha quella cosa, la maglietta. Però la grande Germania del 74, quella in finale con l'Olanda, aveva una maglia bianca con l'oghino. Quella del 90 ce l'aveva bianca con la banda, dopo l'hanno colore, inserita, certo, quella certo. Di quest'anno fa paura. Quindi, paura, bellissimo. Comunque miglioramenti nella divisa dell'Italia rispetto a quella delle Olimpiadi di Parigi, che era nera con una specie di rombo tricolore al centro, una roba a metà tra la Yakuza e la MSI. Esatto. Bruttina tanto. Questa invece è molto bianco. Questo è molto street, molto da tutti i giorni, molto urban style, niente male. Questo un regalo per San Valentino. Potrebbe essere, ad esempio, la fascia comoda, fa con scritto Italia, grandissimo, che hanno sulla testa. È molto, molto, molto comoda. Bene, ma non solo le Olimpiadi, perché è stata la notte anche del Super Bowl. Sono andato a dormire verso le 4:40 e disgraziatamente mi sono un po' bloccato, diciamo così, 5-6 minuti, indovina quando? Nel quarto, quando ormai sembrava la partita indirizzata verso quel tipo di tonalità, si era sul 12-0 per Seattle, però attenzione, 12 punti arrivati tutti con field goal, nessun touchdown alla fine del terzo quarto, ed era record, come era record il fatto che i Patriots fossero a zero, nessuna squadra che ha disputato un Super Bowl vincendo o perdendolo aveva chiuso senza portare punti. Mi risveglio tipo 29-13, il primo touchdown dei Patriots arriva già sul 19-0 ed è un touchdown in cui si sono mangiati tipo 60 yard con due lanci. Fino a quel momento Drake Maye, il QB di New England, era stato semplicemente protagonista della peggiore esibizione di un quarterback nella storia del Super Bowl, con statistiche tipo 8 su 13 per 80 yard, una cosa veramente vergognosa. Secondaria e backfield dei Seattle feroci, perché non hanno mai liberato nessun tipo di spazio, traiettoria, volante e neanche per terra per l'attacco di New England. Quindi partita dominata dalle difese. Succede tutto nel quarto, New England prova addirittura quasi a recuperare, invece alla fine Seattle la chiude. Sam Darnold, quarterback di sistema, di quelli che noi potremmo definire, diciamo, tipo normaloni, non è Brady, non è Mahomes, non è Favre, non è il quarterback quello che ti aggiunge, quello che ti porta, quello che ti risolve la situazione lui, però è quarterback che all'interno del sistema previsto dal suo coach e dall'offensive coordinator fa il suo, bel braccio, coraggioso per andare verso il centro, anzi è quasi elite, le sue statistiche sono quasi elite quando attacca per via centrale e niente, Seattle vince e siamo contenti. E comunque avevamo detto che avevi detto che Seattle puntava molto sulla difesa, in effetti riuscire a tenere a zero quasi, quasi a zero, insomma, fino al quarto, una squadra come insomma abituata a questi livelli, diciamo così, come New England, vuol dire che insomma la difesa era... Allora, la difesa di Seattle è feroce in tutte e due le parti di campo, ma non è che quella di New England abbia giocato male, perché ripeto, si era sul 12-0 e Seattle aveva segnato soltanto di field goal, quindi la difesa di New England per tutta la partita sembrava sempre quasi sul punto di collassare, anche perché era sempre in campo di continuo, e invece ha retto, e invece alla fine ha retto, tant'è che ha permesso alla fine di Drake May, che si è svegliato solo ed esclusivamente nell'ultimo quarto e quasi ci riesce, però alla fine siamo contenti che vince Seattle. Ho visto anche sul profilo dei Pearl Jam festeggiare. Ne parlavamo appunto la settimana scorsa, e come fai a non volergli di vedere, fammi capire. Allora dai, festeggiava la vittoria, grande show ovviamente in mezzo tra il primo e il secondo tempo, con Bad Bunny, l'idolo del reggaeton, portoricano non credo, che credo abbia criticato un po' Trump anche. Sì, in realtà in un modo molto bonario e omnicomprensivo. L'unica cosa più forte dell'odio è l'amore, questo è il succo del discorso. Trump si è comunque imbufalito. Questo è ovvio. Chiudiamo quindi col football americano, spazio anche per il basket, basket che vede questa sera la Virtus giocare contro Brescia, la partita in questo momento che darebbe il primo posto in classifica, sono le due migliori squadre del basket italiano che si sta facendo notare per regolarità di campionati, per giustizia in generale, sia la Serie A che la Serie B, cioè la 2, che sarebbe la seconda serie, diciamo così, hanno una squadra in meno, una squadra che è fallita. Prima è fallita Trapani in Serie A, in Serie A appunto, e allora la 2 ha detto, beh come? Però Trapani è fallito o è stata squalificata? È stata radiata. È stata disintegrata. Radiata da qualunque tipo di torneo, se non amatori, non so, forse può fare una squadra amatori, il buon Antonini, mentre Bergamo si è saputo tutto, girava voce che mancassero degli stipendi, insomma che erano indietro con gli stipendi, cosa che comunque spesso capita anche alle squadre che poi finiscono la stagione. E a un certo punto ho detto, ma non hanno i soldi per andare in trasferta a Brindisi. Cioè, capisco che da Bergamo a Brindisi comunque è lunga. La trasferta, hanno deciso di finirla lì prima della trasferta di Brindisi per risparmiare un po' quel viaggio. Sono 150 euro solo d'autostrada, più la broda, più dormire, mangiare, autogrill che costa quello che costa. Sono 150 euro se hai solo un pullman, ma se non hai più il pullman e devi andarci in macchina, sono 150 euro di macchina. E quindi almeno dovrai fare 4-5 macchine per andare giù, sono soldi, eh. Non so che dici, i personaggi come Antonini è gente cattiva, è gente che fa male a tutto il mondo dello sport italiano. Noi altri che bazzichiamo le minors del calcio, di personaggi come Antonini li conosciamo, pensiamo, noi siamo abituati a campionati che cominciano con un tot numero di squadre e finiscono con un tot numero incerto, anche prima, durante e dopo il campionato. E ci dispiace, adesso noi quasi ride e si scherza. E sappiamo quello che stanno passando i tifosi del Trapani, sia a livello calcistico che a livello di basket, e non è bello, è qualcosa che va a toccare il sentimento popolare proprio di quella città. È molto grave quando succedono queste cose. Il problema è che succede di continuo, ma non interessa nessuno finché non ci va di mezzo qualche piazza che poi comunque cercheranno di salvare. Nessuno ha detto Firenze, ma l'abbiamo solo pensato. E dispiace, ripeto, Antonini è un personaggio che noi abbiamo letteralmente cacciato, anzi abbiamo proprio evitato di farlo anche solo avvicinare alla città, perché avevamo appena trovato un po' di stabilità e quindi abbiamo fatto di tutto per evitare proprio qualsiasi tipo di contatto di Antonini con la nostra città. Vediamo come evolve la situazione. Adesso non so quali sono le altre squadre in pericolo in A2, c'è qualche altra squadra che sta per saltare? Qualcuno arriverà sicuramente. Intanto il risultato di questa esclusione, l'esclusione di Bergamo, da un certo punto di vista aiuta un po' la Fortitudo, perché la Fortitudo aveva perso contro Bergamo e ovviamente, essendo state escluse dal campionato, hanno tolto le partite contro Bergamo, anche quelle che avevano vinto, e quindi la classifica rivista è migliorativa. Sì, per la Fortitudo non abbiamo perso nulla, in realtà ci vediamo la classifica leggermente migliorare. In realtà è una classifica molto molto corta, la Fortitudo ha 25 partite mentre Pesaro ne ha 24, quindi ha una partita in più la Fortitudo di Pesaro, ma è a una vittoria di distanza, quindi in un campionato lunghissimo e ancora insomma che deve ancora far vedere parecchie cose, può succedere di tutto. È a un punto, diciamo così, a due punti dalla prima, ed è sesta, quindi vuol dire che ci sono praticamente sei squadre pari o quasi pari che si giocano. Come sappiamo, il primo posto diretto va direttamente la promozione in A1, e dal secondo al settimo posto andrai a un playoff normale. Aggiunge anche il moltiplicatore di complicanza legato al fatto che manca una squadra anche in A1. Esatto, quindi insomma il giro è veramente zoppo, e credo che insomma ci sia la necessità di guardare e insomma lavorare meglio sulla struttura degli sport in Italia, nel senso che sono veramente hanno tanti soldi da gestire, ma spesso gestiti in maniera molto molto così insomma garibaldina, per non dire di peggio. Comunque dicevamo la sfida di A1, appunto Brescia contro Virtus questa sera per definire la prima in classifica. Per la Virtus non è stata una buona settimana neanche in Eurolega, perché porta a casa due sconfitte. Una si poteva pensare che è quella dell'Olympiacos al Pireo, sfida molto complessa. Trentello preso proprio tranquillo. Trentello perché è andata bene. Io mi sono collegato sul più 42 per l'Olympiacos e ho detto la guardo. Alla fine io quando guardo la Virtus ha fatto canestro solo la Virtus in quel periodo ed è riuscita ad arrivare solo a meno 30, mentre la prima l'aveva persa in casa con l'Asvel, il Villeurbanne, che è ultima in Eurolega. Quella è stata una sconfitta importante. A questo punto la strada per arrivare ai play-in è molto molto molto complessa, perché la distanza è importante, mentre è Milano che è rientrata in gioco, sarebbe ancora fuori dalle 10, diciamo così, che partecipano alla seconda parte di campionato, però credo sia a due punti dal Baskonia, credo che sia l'ultimo, non so chi è l'ultimo adesso. Il Monaco, altra squadra, e uno dice ma il Monaco con grossi problemi finanziari in Eurolega, e Monaco in teoria due spicci per una squadra dovrebbero trovare. Come cazzo è possibile che Monaco sia così nei guai? Gira che non stiano dando gli stipendi, quindi sono indietro di un paio di mensilità, e ovviamente lì sono giocatori molto molto importanti. Bene, siamo arrivati al termine, possiamo salutare, speriamo la prossima settimana di poter raccontare qualcosina di diverso. Sarebbe il caso. Cioè un'altra settimana con solo l'Inter che vince non lo possiamo sopportare. E allora se vinciamo contro la Juve, Mingo, è meglio che non mi fate parlare. Vabbè, togliamo il microfono. Vi lasciamo all'informazione di Popolare Network.